Però non è solo la storia delle moto, voglio dire che anche ci sono stati piloti bolognesi nella storia che si sono particolarmente distinti e quindi hanno, diciamo, trainato anche il mito della moto, al di là del gioco di parole. La moto, cioè la produzione motociclistica che noi presentiamo, in realtà permette anche di fare un guado del tenore di vita, insomma, economico, sociale, insomma, del periodo del nostro Infatti. territorio, ma anche a livello nazionale. Poi accanto alla produzione normale per il turismo, il diporto, c'è anche la parte evidentemente legata alle gare, che proprio in quel periodo vede nascere a Bologna una gara seguitissima che ha incolpito moltissimo gli appassionati dell'epoca, che è il MotoGiro, che partiva da Bologna e tornava a Bologna dopo. Inizia con 6 tappe, poi diventano alla fine 8, insomma, ogni giorno una tappa e con le strade ricolme di appassionati che seguivano il passaggio di queste moto, figurate le strade di allora, insomma, io Sì, stesso, c'è cioè insomma, una cosa questo eroica una praticamente. passione incredibile e seguitissimo anche dai media, insomma, anche dai cinegiornali dell'epoca. Andando più nello specifico sul percorso espositivo, chi viene alla mostra di Via Beverara 123 che cosa vedrà al di là di tanti modelli esposti? Cioè come si svolge questo viaggio nei tempi andati? Noi abbiamo cercato di dare informazioni sul periodo storico, un periodo importante di passaggio dai momenti dalla vita Gramo, insomma, delle medaglie dell'ultima guerra, ora c'è il boom economico, quindi è un momento in cui il benessere fa sì che ci sia una richiesta, però c'è un nemico interno del mondo delle due ruote che sono gli scooter. Alla fine degli anni 40 si affermano Vespa e Lambretta, che sono mezzi agili, belli, insomma, nuovi anche dal punto di vista delle estetiche, di come erano configurati, che arrivano a metà degli anni 50 ad avere più del 20% del mercato delle due ruote. Quindi, e poi c'è un nemico esterno che si affaccia all'automobile. Dopo la seconda metà degli anni 50, le fasce più elevate italiane possono permettersi già l'automobile utilitaria, insomma, è un passaggio incredibile. Insomma. Certo, infatti anche nel vostro titolo, come ho detto all'inizio, il titolo è Le moto bolognesi degli anni 1950-1960, la motocicletta incontra l'automobile. È un campo molto, molto affascinante questo, che documenta i cambiamenti economici e di costume del nostro paese. Ricordiamo le date degli appuntamenti, il sabato e la domenica fino a quando? L'orario del sabato e domenica è dalle 10 del mattino fino alle 18:30, orario continuato. La mostra doveva terminare il 15 maggio, però vi posso dire in anteprima praticamente assoluta che abbiamo deciso di prolungarne la durata fino a dopo l'estate e precisamente fino al 16 di ottobre. Quindi avete ancora tempo, mi raccomando, non mancate, Ah, benissimo, vale la pena. però chi ha tempo non aspetti tempo, quindi andiamo a vederla. Certo. Io la ringrazio molto, dottor Campigotto, della conversazione. Quindi invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a vedere al Museo del Patrimonio Industriale in via della Beverara 123 questa mostra Moto Bolognesi degli anni 1950-1960, il sabato e la domenica, orario continuato dalle 9 alle 18. Dottor Campigotto, la ringrazio ancora e le auguro buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie anche a lei.